denari. E ci ritroviamo anche oggi con il nostro giovedì dedicato alle parole del risparmio, agli strumenti di investimento, i temi dell'attualità finanziaria, le dinamiche dei mercati, le notizie che movimentano le sedute di borsa, questi temi su cui ci confrontiamo per cercare possibilmente di orientare i risparmiatori. Investire informati. Partiamo anche oggi, come sempre facciamo, dalla cronaca per andare poi oltre commentando le vostre scelte personali, se le vorrete condividere con noi, ma soprattutto con il nostro ospite di oggi. È tornato a trovarci Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Le modalità per interagire con noi le conoscete molto bene, cominciate certo. Intanto a prendere in mano la cornetta del telefono, la cornetta che neanche c'è più, il telefono ormai, il cellulare si usa. Allora, andate di ditino. Smartphone, esatto. 800 24 00 24. E poi come sempre vi invitiamo ad essere i protagonisti del nostro Investire Informati, perché adesso vi racconteremo un po' di cose che sono successe e al termine della puntata facciamo anche l'interrogazione, procediamo con l'interrogazione, non vi diamo i voti, ma se rispondete bene apriamo la nostra biblioteca e naturalmente riforniamo la vostra. Dottor Alfieri, dove va in vacanza quest'anno? Grecia, Spagna o ha pensato a qualche altra località? No, direi che visto le temperature probabilmente un po' più alte fra poco sia in Grecia che in Spagna, rimango in Italia, così almeno evito di abbronzarmi troppo. Evita di ricevere qualche telefonata di lavoro nel caso appunto andassi in queste due località. Scherzi a parte, questa è una settimana all'insegna del nervosismo sui mercati finanziari. È da lunedì che parliamo con insistenza di questi due temi. Intanto della situazione greca, in realtà ne parliamo da molto più tempo, e della possibile insolvenza sulle prossime rate del suo debito con il Fondo Monetario Internazionale. Ce n'è una che scade a breve, il 5 giugno. Ieri, a quanto pare, il mercato è stato rassicurato dal fatto che sia il governo greco che i creditori internazionali avrebbero detto che un accordo si troverà quantomeno per rimborsare le prossime rate. Chissà se è vero, lo vedremo nelle prossime ore. C'è stata poi la vittoria schiacciante della sinistra radicale di Podemos alle amministrative spagnole di domenica. Dottor Alfieri, pesa di più lo spettro dell'insolvenza greca o è la Spagna che ha reso più vulnerabili i mercati questa settimana? Ma no, diciamo che forse probabilmente ancora rimane prevalente l'importanza, diciamo, degli eventi in Grecia, di come si evolverà la situazione. Direi che comunque in generale la volatilità dei mercati finanziari e azionari nello specifico sta andando a aumentare, era qualcosa che ci aspettavamo. Direi che in questo momento si vivono ovviamente in modo molto emotivo eventi quotidiani. Abbiamo visto che per esempio fino a qualche giorno fa la Grecia era data quasi per spacciata, ieri sera sembrava che ci fosse un accordo, ecco. E ovviamente questo non fa altro che aumentare la volatilità sui mercati stessi. Allora, visto che l'ha già introdotto questo argomento che avremmo voluto affrontare più tardi, direi di toccarlo immediatamente. Volatilità sui mercati. Quando è che un mercato si definisce particolarmente volatile? Ma diciamo che si classifica un mercato o un momento di mercato particolarmente volatile quando, ad esempio, nell'arco di pochi minuti, poche ore, gli indici o i prezzi all'interno dell'indice assumono appunto delle variazioni molto consistenti, che non sono, e questo è molto importante, non sono giustificate o giustificabili dagli eventi sottostanti. C'è un indicatore che misura questa volatilità? Sì, c'è il VIX, è un indice che negli ultimi anni ha assunto via via sempre maggiore importanza, è un punto di riferimento per gli investitori, direi maggiormente soprattutto gli investitori professionali, per vedere, è un po' il termometro per capire se siamo in una fase particolarmente calda, di alta volatilità o di tranquillità. Dottor Alfieri, in molti sostengono che il nervosismo che abbiamo visto sui mercati in questi giorni e che ha portato appunto le borse ad essere piuttosto volatile sarà il fenomeno che ci accompagnerà ancora per settimane, e non solo per la questione greca, che sarà il tema su cui tenere un faro puntato con costanza, ma in realtà è perché qualcuno ritiene che, come dire, il vero focus da mantenere sotto i riflettori sarà l'andamento del mercato obbligazionario, un mercato che è destinato ad aggiustarsi. C'è chi parla apertamente, senza timore, di bolla che non scoppierà ma che verrà fatta sgonfiare cambiare con qualche movimento brusco ogni tanto, proprio come è accaduto 3 settimane fa. Ne abbiamo parlato anche con i suoi colleghi che l'hanno preceduta in Investire Informati. Lei a che partito appartiene? Cosa ne pensa? A cosa plausibilmente andremo incontro nelle prossime settimane? Sicuramente possiamo dire che concordo col fatto che si sta assistendo a un fenomeno di aumento della volatilità e del nervosismo sui mercati. Lo fa da padrone ovviamente il momento in cui negli Stati Uniti la Federal inizierà realmente ad aumentare i tassi in modo concreto. Significa evidentemente una nuova stagione per l'economia americana, quindi di crescita ancora più sostenuta, più concreta, e quindi probabilmente di un rialzo dei tassi nel mondo obbligazionario. Questo si presume avrà poi un effetto parzialmente ovviamente a catena anche sugli altri mercati obbligazionari. È questo un po' l'elemento che sta ovviamente creando qualche tensione. Ci sono, non ci dimentichiamo, c'è moltissima liquidità immessa dalle 4 principali banche centrali mondiali, America, quindi Europa. Stati Uniti, Europa, Inghilterra e Giappone. Questa liquidità gira, cerca di trovare ovviamente una propria allocazione. È chiaro che in questo momento è presumibile che se i mercati obbligazionari iniziano a rappresentare un elemento di preoccupazione, usciranno abbastanza velocemente in qualche modo da alcuni investimenti obbligazionari per andare da altre parti. E di questo fenomeno ovviamente i mercati hanno particolarmente timore. Però concludo dicendo che noi siamo, diciamo, sposiamo la tesi, l'ipotesi che comunque la Federal aumenterà molto molto gradualmente i tassi, per cui non ci aspettiamo evidentemente una fase di crisi, certo, sui mercati obbligazionari. E oltretutto ogni iniziativa che Janet Yellen prenderà la preannuncerà con largo anticipo, per cui diciamo che si andrà verso questo assestamento anche dei tassi con sì, certo. No, poi non ci dimentichiamo che partiamo da tassi praticamente azzerati, quindi, da almeno 6 anni. Quindi quando la Fed aumenterà i tassi si parla di uno 0,25, quindi ovviamente di un'entità molto molto bassa se si guarda ovviamente alla storia della politica monetaria, certo, americana. Ma senta, i gestori di portafogli importanti come possono essere la sua società, come altri suoi competitor, temono l'avanzata dei partiti di protesta in Europa? I mercati temono questa situazione o l'hanno già predigerita, tanto per rimanere nel gergo del colon che utilizzavamo poco fa? Diciamo che in questo momento il contesto ovviamente di questi partiti riguarda prevalentemente l'Europa. L'Europa sta godendo di una fase particolarmente favorevole, abbiamo visto una crescita più o meno sostenuta ma sicuramente superiore rispetto agli anni scorsi, l'euro è sceso, le politiche monetarie della BCE sono molto accomodanti, questo significa che il quadro complessivo in Europa è favorevole, quindi al momento non siamo particolarmente preoccupati, anche se ci sono ovviamente questi fenomeni di protesta. Certo. Ma crediamo che il contesto, guardando ai mercati finanziari, rimarrà favorevole. Di tutto questo riparleremo tra poco, dopo il giornale radio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, come ogni giovedì a quest'ora vi stiamo accompagnando in un nuovo appuntamento dedicato ai mercati e ai nostri risparmi. Investire informati. Allora, intanto state attenti perché fra un po' testeremo la vostra attenzione, cercheremo di capire se avete colto una notizia che abbiamo dato nella prima parte del programma. Tra le righe. Non tanto tra le righe, era anche piuttosto esplicito il ragionamento che abbiamo fatto, ma magari a qualcuno è sfuggito. Comunque 800 24 00 24, non solo per prepararvi e candidarvi a rispondere al domandone che faremo tra poco, ma anche per cercare di capire come orientare le scelte di risparmio e di investimento alla luce dei movimenti dei mercati che sono piuttosto vivaci in questi giorni. Le notizie della settimana le abbiamo commentate con Lorenzo Alfieri di JP Morgan nella prima parte del programma. Siamo partiti intanto dall'evoluzione della crisi greca, che ogni giorno non manca di avere delle novità, e poi abbiamo avuto questo risultato elettorale piuttosto significativo in Spagna della sinistra di Podemos, movimento di protesta, qualche segnale c'è anche in altre aree d'Europa, e quanto queste novità politiche potranno condizionare l'andamento dei mercati lo capiremo prossimamente. Intanto 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. C'è un ascoltatore che chiede: informazioni sul fondo Cometa. È il fondo pensione della metalmeccanica. Massimo, ovviamente non è il tema di oggi, però se vuole scriverci a cuoredenari@radio24.it saremmo felici di darle delle informazioni in privato. Detto questo, dottor Alfieri, abbiamo parlato prima di mercati molto volatili. Questa settimana abbiamo visto delle dinamiche piuttosto accentuate, ma un piccolo risparmiatore che ha condiviso con il proprio consulente finanziario una propria pianificazione, un proprio investimento naturalmente, e che lo ha visto magari nelle ultime settimane muoversi in maniera particolarmente rilevante. Che cosa deve fare? Come si fa a gestire un mercato volatile? Soprattutto qual è il suggerimento di buonsenso da dare ad un piccolo risparmiatore che noi ovviamente raccomandiamo sempre di tenere i nervi saldi, però è anche comprensibile se poi si leggono le pagine dei giornali e ci si spaventa un po'. Cosa fare? Ma no, direi che assolutamente è necessario avere molto chiaramente in testa, ad esempio, l'obiettivo di rendimento che viene, si può prefissare con un proprio patrimonio da investire, le esigenze, le necessità di medio-lungo termine che possono interessare l'investitore, anche la propensione al rischio dell'investitore stesso. Questo tutto deve essere fatto però anticipatamente alle scelte di investimento. Poi con il consulente auspicabilmente vengono definiti gli investimenti, e a questo punto non bisogna assolutamente farsi prendere dal quotidiano, dagli eventi, dagli indicatori come il VIX della volatilità. Quindi lasciamo assolutamente perdere la volatilità del mercato e rimaniamo ovviamente a guardare l'evolversi della situazione. Se la pianificazione è stata corretta, se gli investimenti sono giusti, anche i momenti di volatilità vengono superati in modo assolutamente positivo. Non ci dimentichiamo che il 2008, 2007, 2008, che sono stati anni catastrofici, oggi come oggi dagli indici sono stati ampiamente superati. Anzi, diciamo che c'è anche qualcuno che ha avuto come dire, un po' di pelo sullo stomaco per investire in quella fase di correzione che è stata molto dirompente, come ricordava Lorenzo Alfieri, e da quella volatilità ha tratto vantaggio. Detto questo, non è un mare da navigare per tutti, e quindi bisogna anche sapere che poi delle fasi di correzione possono durare anche a lungo e bisogna avere molta pazienza. Volevo solo rispondere ad un ascoltatore che contesta, lo faccio con un pochino di con un atteggiamento da viperetta, ma naturalmente scherzo. Giovanni scrive: ma come, tassi a zero da almeno 6 anni, ma cosa dice? Guardi, la Federal Reserve ha portato i tassi di interesse sul livello attuale nel dicembre del 2008, mi sono andata a riguardare il grafico, per cui siamo a 7 anni che la politica monetaria della Banca Centrale Americana è su questi livelli, per cui non mi pare di essermi sbagliata. Poi i tassi a zero, se andiamo a guardare obbligazioni di brevissima scadenza, ci sono arrivati in tempi più recenti, dottor Alfieri. Questo sì, effettivamente un fenomeno nuovo che sta un po' scompaginando le convinzioni dei risparmiatori. Assolutamente, soprattutto in Europa e in Italia mi rendo conto che stiamo assistendo a livelli di tassi mai visti prima, e che creano inevitabilmente grosse preoccupazioni su come estrarre dai propri investimenti un rendimento che possa ovviamente soddisfare le proprie esigenze quotidiane. Questo è una conseguenza ovviamente della politica monetaria fortemente espansiva dovuta dalla BCE, e presumibilmente questo tipo di scenario è uno scenario che potrà durare ancora qualche tempo. Anche se stamattina, poi l'abbiamo detto nel giornale radio, le aste dei titoli di Stato italiane hanno mostrato una leggera risalita dei rendimenti, ma siamo ancora nell'ordine di movimenti assolutamente fisiologici, no dottor Alfieri, mi pare di poter dire? Beh, assolutamente sì, ricordiamoci che appunto gran parte dei titoli governativi europei dei principali paesi dell'area nord dell'Europa erano fino a poco tempo fa quasi tutti negativi i rendimenti. Adesso ci siamo riavvicinati allo zero, comunque siamo di fronte a movimenti assolutamente marginali, chiaramente ben lontani dai tassi a cui eravamo abituati in Italia. Allora, sai che faccio, Nicoletta? Procederei col domandone, così almeno arrivati al momento di accendere il microfono, direi, dopo anni di onorata carriera, te lo devo ancora allora dire. Allora devo dirvelo, ho un po' di tosse, allora sì, cosa faccio? Spengo, accendo e poi mi dimentico ed eccomi qua. Qualche sussultino come quello che registrano i mercati ogni tanto. Il domandone. cuffie proprio come rischia tutto, allora vi do anche un aiutino ancora prima della domanda. Lo chiamano anche l'indice della paura, lo sapevi questo? Me l'avevi detto tu, devo dire. Ecco. Allora, come si chiama? Io quell'indice, quell'indice. Sei tu la mia maestra. Quell'indice che misura la volatilità dei mercati. Peraltro, abbiamo detto nella prima parte del programma, Lorenzo Alfieri l'ha ricordato di nuovo poco fa, voi candidatevi a rispondere all'800240024. Abbiamo tanti libri da regalarvi per correggere lo stile alimentare, ma anche per imparare qualcosa in più sull'andamento dei mercati finanziari, per cui poi ci direte che cosa preferite. Noi siamo pronti naturalmente a consegnarvi qualche volume della nostra libreria, per cui 800240024. Non sono accettate, se non in caso eccezionale, risposte che arrivano dall'SMS o da Facebook, però se volete insomma vivacizzate anche queste altre modalità per raggiungerci. Quindi, come si chiama l'indice che misura la volatilità dei mercati e che in questi giorni è ritornato a far parlare di sé? Dottor Alfieri, abbiamo notato in queste giornate di borsa abbastanza vivaci, come le sto continuando a definire, dei movimenti abbastanza significativi anche sul fronte valutario. Il dollaro si sta apprezzando sull'euro, è un movimento che è destinato a continuare. Arriveremo ad un rapporto di parità almeno fino a quando non avremo una visione chiara di quello che farà la Banca Centrale Americana prossimamente? Allora, dare degli obiettivi su un cambio come quello dollaro-euro è assolutamente impensabile. Peraltro possiamo comunque dire che in questa fase, qualora ovviamente la crescita americana continua a essere così convincente e l'Europa continua ovviamente a mantenere una politica di tassi così favorevole, inevitabilmente il dollaro viene ad essere favorito. Ciò detto, ovviamente è diverso porsi l'obiettivo di investire in questo momento in dollari. Gran parte della corsa sicuramente del dollaro, della rivalutazione del dollaro è avvenuto. Stiamo infatti vivendo una fase di volatilità proprio perché ovviamente certi obiettivi o target, come vengono definiti, di cambio sono già stati raggiunti e quindi sta aumentando la volatilità nell'incertezza. Non c'è più ovviamente quindi una convinzione di ulteriore forte rivalutazione del dollaro, ma in questa fase comunque il dollaro rispetto all'euro rimane comunque la valuta, diciamo, da preferire. Certo. Allora, intanto, se il dollaro rimane la valuta da preferire, ci sono altri mercati che lo stesso stanno manifestando dei segnali molto interessanti. Prima abbiamo parlato delle politiche monetarie condotte in questi anni dalle principali banche centrali. Siamo partiti dagli Stati Uniti per ricordare quello che ha fatto la Federal Reserve. Sulla Banca Centrale Europea abbiamo versato fiumi di inchiostro e speso tante parole. Il quantitative easing, solo per raccontare l'ultima grandissima iniziativa. Abbiamo parlato della Bank of England, della Banca d'Inghilterra, ma adesso mi focalizzerei per un attimo sul Giappone. Va bene. Perché ci piace. La borsa giapponese è ai massimi da 15 anni e da oltre una decina di giorni, ogni giorno fa una salitina e ritocca questi record. Anche in questo caso tutto merito dell'Abenomics, dottor Alfieri? Ma sicuramente diciamo che è in gran parte legata a questa politica monetaria estremamente espansiva e non ci dimentichiamo che ha portato a una forte svalutazione dello yen verso tutte le altre valute. Di questo ovviamente stanno fortemente proprio in questo momento beneficiando le aziende esportatrici giapponesi che stanno riportando una forte crescita degli utili anche in questa stagione, in questa prima parte del 2015. Non direi che però tutti gli elementi sono positivi. Noi vediamo per esempio in Giappone ancora non rispondere la domanda interna, i consumi che rimangono ancora troppo bassi rispetto ovviamente alla forte mole, al forte sforzo che è stata fatta dalla banca centrale giapponese. Quindi in questa fase i mercati stanno privilegiando i risultati delle aziende giapponesi ottenute prevalentemente all'estero. Stiamo aspettando conferme di una forte e più consistente crescita dei consumi interni giapponesi. Zitto zitto invece anche il listino cinese stava macinando record su record ed era sui massimi almeno fino a ieri dal 2008. Stamattina c'è stata una correzione, questa sì che possiamo definire prorompente, -6,5 punti sul mercato azionario. Tu pensa se Piazza Affari in una giornata come questa facesse una prestazione del genere. Lì siamo abituati effettivamente a movimenti di questa dimensione. Che cosa è successo? Che il governo cinese ha detto: senti un po', la borsa stava correndo troppo, adesso mi ci metto io di mezzo e la freno un attimo. Ma perché ogni tanto è necessario congelare questi andamenti positivi e non permettere che invece gli investitori magari su questo mercato continuino a beneficiare di questo andamento? Quindi ha tirato un po' il freno, come un freno a mano, una frenata, ecco. Direi con una bella strisciata anche di gomme sull'asfalto. A proposito di gomme, esatto. Beh, questa è la grossa differenza che esiste tra le borse cosiddette dei paesi maggiormente sviluppati e i cosiddetti paesi emergenti. Paesi emergenti significa non solo paesi che stanno cercando di trovare una loro nuova dimensione economico-finanziaria, ma nel caso specifico paesi che hanno delle borse non particolarmente evolute, per cui le autorità, in questo caso cinesi, stanno cercando in qualche modo di controllare i flussi che stanno arrivando in modo impetuoso, incontrollato, e quindi ovviamente pongono in essere delle manovre. Questo non è al momento necessario, per esempio, negli Stati Uniti o nelle borse europee, dove la dimensione delle borse stesse, l'enorme liquidità e tutta una serie ovviamente di strumenti di controllo permettono ovviamente un flusso molto meno speculativo sulle stesse. Sono però queste, e la cinese ma anche la storia indiana, storie di lunghissimo periodo. Molto spesso molti suoi colleghi suggeriscono comunque di mantenere un'esposizione su queste aree, perché sono delle storie di crescita che danno soddisfazione in termini di rendimento con la pazienza, con il tempo, per cui ecco, anche giornate come questa chiaramente le dobbiamo guardare con un po' di distacco potenzialmente. Anche voi siete di questa idea, dottor Alfieri? Anche l'India è una gran bella storia. Adesso lo Stato, il governo ha messo in campo un massiccio piano di investimento per migliorare, anzi per fare da zero direi, la rete infrastrutturale interna, per cui molti dicono, se si vuole investire in India, magari puntare su quelle società che faranno quelle infrastrutture. Se non si vuole andare direttamente ad investire sul mercato azionario indiano, ad esempio, allora andate sulle società magari europee o americane che faranno quelle infrastrutture, no? Tante idee interessanti. Parlando dei mercati emergenti azionari, in generale noi abbiamo una visione al momento estremamente cauta, visto il quadro congiunturale. Però all'interno dei paesi emergenti ora più che mai ci sono grosse differenze, e voi avete citato due, forse probabilmente delle storie più interessanti: Cina per alcuni motivi, India, ma non solo. I paesi asiatici emergenti sono probabilmente, nell'area dei paesi emergenti azionari, forse le storie e l'area più interessante, tanto è vero che i tassi di crescita in questa area sono previsti intorno al 5-6% anche nel 2015. Quindi, facendo ovviamente le valutazioni di entrare in modo ovviamente cauto e con un obiettivo di medio-lungo termine, sicuramente ancora India e Cina rappresentano, infatti, delle interessanti opportunità. Allora, il domandone si sono candidati a rispondere, intanto abbiamo preso, se ne sono candidati in tantissimi. Ma noi abbiamo preso Mirra da Monza. Che nome interessante, Mirra, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Benvenuta. Erano appassionati della storia dei Re Magi, i suoi familiari, immagino. No, la mirra intesa come resina fossile, proprio. C'è una lunga storia, carina, però non sto. Ce la racconterà un'altra volta in cui avremo più tempo. L'indice che misura la volatilità dei mercati qual è? O indice della paura. Brava. Allora, vedi, io che ho credo anch'io sia la deviazione standard. Dottor Alfieri, la promuoviamo, Mirra? Dobbiamo, no, non dobbiamo promuovere. Allora, noi. Io ho un'idea. Sì, che noi diamole per la buona volontà di consolazione. Va bene. Mirra. Un romanzo, magari. Cuore, denari o. Come cosa consolazione, vuole lei? Che cosa vuole? No, preferirei quello sulla, cioè qualcosa sulla finanza, così magari ripasso meglio. Brava. Benissimo. E allora vediamo, allora qua invece a Gaetano, chissà se dobbiamo darne tre a questo punto. Gaetano, benvenuto. Vediamo cosa ci dice. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica allora. L'indice della volatilità per me è il VIX. Qua scatta l'applauso, che ne è scattato, ma lo facciamo scattare immediatamente. Bravo Gaetano. E l'indice della paura, appunto, si chiama VIX, è il più noto e utilizzato dagli addetti ai lavori per misurare la volatilità dei mercati, cioè, come ci spiegava prima Lorenzo Alfieri, il grado di oscillazione dei prezzi nel tempo. È un paniere molto complicato perché è composto di opzioni, contratti derivati e quindi come dire, approcciamoci anche a questo indice con grande cautela, lasciamolo maneggiare agli investitori professionisti. Comunque bravo Gaetano, brava anche Mirra che si è candidata comunque a rispondere. Intanto la nostra trasmissione è terminata, sono anche fuori tempo massimo oltretutto. Avevo notato, ma mi hai lasciato andare. Dottor Alfieri, grazie per essere stato con noi, ci vedremo ad occhio fra un mesetto con lei. Grazie mille. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo Deborah? Dire che la Rosciani adesso se ne va per qualche giorno e torna un po' più in là e ti lascio, vi lascio in ottime mani. Non sappiamo. Trattatemela bene. Sì. E tu ti mancherò un pochino. Però molto, speriamo. Molto, bene. Ma sono contenta. Bene, tu qualche vada, giornino di vacanza. Tornerai smagliante. Speriamo. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.